Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, contro-informazione, letture, promozioni, musica, Radio Azione, frequenze, azione, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, Bandito con Scary Movie. Ehi, Scary Movie, sto cazzo, Scary Movie, sto con la testa proprio nel pallone. Bene, Scary... Non siamo molto presenti. Senti? Scary Rainbow va bene. Sarà la primavera. Sarà il polline. Sarà il polline, sarà l'ora domani. Si mette l'ora avanti. Sì. Già sentiamo. Sarà che siamo rincoglioniti, e questa è chiara e tondo. Scary Rainbow per iniziare questa diretta d'azione di lunedì 28 marzo. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@artistici.org. Per inviarci email, per le diarree vocali di qualcuno che va scovando l'erroruccio minimo dentro un testo tradotto per intero di radiazione. E non è dei propri. Eh sì, sì, diarree che arrivano dalla Grecia. Ma sento, vabbè, lasciamo. Moriranno di dissenteria se ci mettiamo a fare le traduzioni come qualcun altro con Google Translate. Quindi vabbè, la mail per inviarci qualsiasi tipo di comunicato, iniziative, materiale che volete che venga diffuso attraverso il sito di radioazione, nella pagina download dove ci sono già opuscoli, libri, manifesti, insomma un po' di materiale. Radioazione.org, il sito per l'appunto dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete anche ascoltare la radio senza aprire due pagine. C'è lettura flash direttamente sulla pagina di homepage, sulla sidebar di radioazione. Pigiate play lunedì e venerdì dalle ore 17 e ascoltate la diretta d'azione, altrimenti vi ascoltate se sentite tanto tanto la mancanza di questa voce del cazzo mia, o di vabbè, la sua è già un po' di meno, o quella di Marcello. Potete andarvi a riascoltare i podcast delle vecchie dirette d'azione attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione. Allora, ho detto tutto, la radio trasmette su anarchia.net. Anarchia. Vabbè, tu sei croata, quindi non rumena, quindi sei la mia badante croata. Badante, no? Slava. Badante slava. Badante slava. Non facciamo confusione. Ecco, quindi la diretta inizia bene con 3000 cazzate, va bene, radiazione e questo e altro. Soprattutto altro. Tutto altro. Soprattutto altro. A meno di spera. Quindi abbiamo detto tutto, ci ascoltiamo un brano di Black Light Buns con il brano Mesopotamia e poi dopo si torna qui e si inizia la lunga diretta d'azione che durerà un'ora e mezza lunga. Mesopotamia, Mesopotamia, you fucking get it, creeps, you fucking get it. questi, come detto prima, erano Black Light Band con il brano Mesopotamia. Ora riprendiamoci un attimo dall'incoglionamento e cerchiamo di portare avanti questa diretta d'azione. Sarà molto lunga, ma sarà molto lunga per la condizione psicofisica mia, ma pure sua. Cioè, lei è fatta una diva tranquilla, è stata tranquilla. La vita, è stata rincoglionita. Per questo non mi sentite? Vabbè. Verità, ci siamo svegliati da poco, quindi non è che abbiamo fumato, non abbiamo bevuto. No, io sono sì. Astemia. Quindi è a posto, quindi. No. Allora, iniziamo la giornata con la diretta della radiofonica, con la giornata della Generazione Solidaria Internazionalista, con due testi di solidarietà con i compagni del caso Security. Lo ricordo, la giornata di agitazione solidaria internazionale si è conclusa il giorno 25, ora arriveranno il resto dei testi. Per quanto riguarda i testi dei tre accusati nello specifico per il caso Security, si è preferito lasciarli in lingua perché c'erano dei passaggi che non erano stati capiti, c'erano dei modi di dire, cioè, ci sono delle parole pure, forse saranno mapuche, non lo so che lingua è. Comunque provato vari dizionari di spagnolo, non lo trovate, quindi ho preferito metterle in lingua. Chi gli piacciono, chi ha voglia se le va a tradurre da solo, così nessuno si potrà lamentare che perché è stato tradotto male per un nome che tra l'altro è stato sto coglione di Google Chrome che aggiorna, si traduce pure dall'italiano all'italiano. E insomma, vabbè, dicevo, due testi per i compagni in solidarietà con i compagni del caso Security, li leggiamo. Oggi 23 marzo daremo vitalità insorta a quell'angolo monotono dove più di 6 anni fa dovrebbe essere il sangue di un guardiano dei ricchi correva lungo il marciapiede dopo uno scontro a fuoco con coloro che assaltarono derubando un tempio di accumulazione capitalistica. Pochi giorni dopo, il 18 ottobre 2007, si apre una battuta di caccia della polizia e dei giornalisti che indicano i compagni Marcello Villarroel, Juan Alice e Freddy Fuentavilla e Carlos Gutierrez come responsabili per l'assalto e la successiva morte del poliziotto. La campagna di morte si diffonde ed i compagni decidono di darsi alla latitanza, ma verranno catturati. Ognuno di loro ha un innegabile passato e un presente di lotta e sovversione, sia dentro che fuori dal carcere. Pochi giorni prima dell'inizio del processo a Freddy, Marcello e Juan, dove il potere cercherà di condannarli a vita, abbiamo lanciato volantini e appesi due striscioni all'angolo di Santa Lucia con Moneta, il luogo esatto dove fu sparato e abbattuto Moiano. In attesa della sentenza del caso Security, solidarietà e azione con Freddy, Marcello, Juan e Carlos, solidarietà e azione per fermare le macchine di morte giudiziaria, tutti i prigionieri politici liberi, fino a distruggere l'ultimo baluardo della società prigione, giornata di agitazione solidaria internazionalista dal 14 al 25 marzo. Oggi è il 28, abbiamo già detto che è terminata. E questo era il primo testo, il secondo che è molto simile, ho capito che me l'hanno spedito tutti e due insieme, era molto simile, facevano uno, lo rileggiamo, come quasi rileggere il primo. In questo luogo, il 18 ottobre 2007, ebbe inizio il giudizio politico, poliziesco e repressivo contro i compagni Freddy Fuentevilla, Marcello Villarroel, Juan Alice Vega e Carlos Gutierrez e Chidileo, dopo un assalto ad una filiale del Banco Security concluso con lo scontro armato e la morte del capo Moiano. Da allora iniziò la caccia e la polizia costruì uno scenario in cui i nomi dei compagni figurarono come colpevoli. Noi riconosciamo i compagni come rivoluzionari con un passato e presente di lotta, attivi nello sviluppo della guerra sociale, e per questo motivo per cui la nostra solidarietà è sincera e concreta, materializzandosi in un gesto di propaganda nel luogo dove il potere 7 anni fa prese di mira i compagni. Nella giornata di agitazione del solidario internazionalista dal 14 al 25 marzo, l'altra volta, solidarietà e azione con Freddy, Marcello e Juan Carlos, imputati nel caso Security. E questi erano i due testi con cui iniziamo oggi la diretta d'azione. Ricordo giornata di venerdì, la diretta del venerdì, c'è solo contro informazione e musica, e poi ci faremo qualche chiacchiera commentando qualche articolo o qualche cazzata vista in giro e pubblicata pure sulla reazione, tipo gli Oscar oramai vanno americani, gli Oscar americani agli anarchici. Va bene, quindi cioè, andiamo, cioè, dopo un paio, due, tre notizie di controinformazione andremo un po' sugli Oscar, parleremo di questa premiazione dei vincitori avvenuta in America per il miglior anarchico, il miglior prigioniero, il miglior tanti, prigioniero, ma... il miglior morto. Io, ridiamoci ci sarebbe da piangere, ma noi ci ridiamo. Allora, ci ascoltiamo un brano prima di passare alla prossima notizia di controinformazione. Loro sono Chrome con il brano New Impression e dopo, non lo so, si leggerà qualcos'altro. Thank you. adesso passiamo a una notizia che arriva dall'Italia, praticamente da Lecce, però è stata tradotta dall'inglese, cioè una cosa abbastanza curiosa. Inusuale, non è apparsa in nessun sito italiano, e quindi è stata presa dal sito dei compagni di Act for Freedom Now. Sbirri lanciano un ordine esplosivo nel cortile dello squat binario 68. Si tratta di bombe di cartapesta, bombe di carta, bombe finte disseminate per la città. Ma vere o finte, qualcuno le ha usate come un ottimo strumento per diffondere terrore e diffidenza verso ognuno che crede che una società migliore sia possibile. I giornalisti e la polizia intraprendono i primi passi contro gli squatters del binario 68 utilizzando lo strumento della bomba. Hanno tentato due volte negli ultimi giorni, la prima con le bombe finte e la seconda con una vera che appunto è esplosa. Alle 3.40 del mattino del 18 marzo la maggior parte degli squatters dormiva, ma alcuni erano svegli e dopo aver sentito un forte boato hanno immediatamente guardato fuori dalla finestra. In pochi secondi hanno compreso che un ordigno esplosivo era stato buttato nel cortile dell'edificio. Hanno visto una nube di fumo e la macchina della polizia, unico veicolo presente nella via, accelerare nella direzione sbagliata in via Birago, che è a senso unico. Logicamente gli sbirri non stavano inseguendo nessuno. Questo atto vile e intimidatorio è solamente il culmine di una serie di eventi che puntano a criminalizzare e a distruggere la volontà di autogestire la propria vita, gli spazi e i desideri, in contrasto con le regole imposte dal sistema attuale. Una minaccia contro coloro che non vogliono adattarsi. Il potere non fa concessioni, né tollera una realtà che cerca di promuovere l'aggregazione attraverso la solidarietà e la condivisione. La biblioteca è a disposizione di tutti, il film che può essere visto senza pagare il biglietto, lo scambio di idee e delle pratiche negli incontri orizzontali, i pasti in comune. Queste sono le cose in cui ci riconosciamo e che non trovano posto nel mondo capitalista. Una parte di questo potere è gestito e quindi manipolato dalla stampa e dai mass media. Nel quotidiano di Lecce di 16 marzo abbiamo letto un articolo che esprimeva le parole della Digos e dei giudici, ipotizzando delle possibili accuse contro gli antagonisti. In particolare collegano le bombe di cartapesta, che in verità furono create per pubblicizzare la festa in un locale leccese, con l'undicesimo anniversario dell'assassinio di Davide Cesare Dax ucciso dai fascisti. Ci sono stati numerosi episodi che miravano a intimidire sia quelli che vivono nello squat come anche quelli che decidono di prendere parte alle attività dello stesso. Blocchi stradali, continui controlli della polizia, pedinamenti. Fa tutto parte di una strategia messa in atto contro ognuno che vuole creare uno spazio libero dalle logiche del profitto e dello sfruttamento. Siamo consapevoli delle conseguenze delle nostre scelte e speriamo che questo spazio diventerà ancora più vivo e attivo con quelli che condividono le nostre esigenze e le nostre pratiche di lotta. La repressione non ci sorprende né ci fermerà. E questo era il testo che è stato tradotto dall'inglese all'italiano, quando arriva dall'italiano, in italiano non era fatto. Speriamo che la traduzione sia fedele, perché nessuno ci venga, gli vengano diarree. No, però non è il caso dei compagni di Act for Freedom, che conosciamo benissimo. No, loro siamo non, in no, non sono i rapporti con i compagni di Act for Freedom. Non è il caso loro, è il caso di qualcun altro. Sì, che qualcun altro, come cioè brutto citare insomma delle frasi bibliche, ma insomma in questo caso si potrebbe anche dire quelli che vedono la pagliuzza nell'occhio altrui ma non la trave nel proprio. Insomma, questo era per quanto riguarda il testo scritto dai compagni di Lecce su questo attacco subito dagli sbirri. Purtroppo tutte le rivendicazioni tocca leggere anche questo. Ma sono cose che sono sempre accadute, sono accadute pure a Napoli, e quindi siamo consci di cosa significa e la rabbia che ti mette quando poi li vedi, questi pezzi di merda. Allora, prossimo brano è Joanna Sites con il brano Danger con Ivan Pavlov. E poi dopo si ritorna qui e si ritorna ancora con la controinformazione. Allora, dopo questo brano passiamo di nuovo alla controinformazione, dando due notizie brevi di due attacchi, tutte e due in solidarietà con i compagni del Casa Security in Cile. Leggiamo il primo: in Argentina, dove c'è stata una minaccia bomba su un aereo che è stato costretto ad atterrare. Allora, leggiamo il testo rivendicativo: nel contesto della giornata di agitazione e solidarietà con i compagni Marcelo Villarreal, Freddy Fuentevilla e Juan Alister Vega, detenuti in Cile dopo essere stati espulsi dal governo argentino e accusati di tutte e tre di una rapina finita con la morte di uno sbirro, mercoledì 19 abbiamo fatto un allarme bomba al volo 4648 della compagnia LAN con destinazione Santiago. Con questo semplice gesto si è riuscito a paralizzare l'aeroporto di Ezeiza e Mendoza, con corrispondente perdita economica che comporta e costringendo l'aereo ad un atterraggio d'emergenza. Invece l'altra notizia, sempre in solidarietà, come dicevo prima, con i tre compagni accusati per il caso Security, ci arriva da Salonicco in Grecia, e leggiamo anche di questa il testo rivendicativo. Giovedì 20 marzo, durante la notte, utilizziamo materiali infiammabili per incendiare un veicolo diplomatico di un altro paese, a est della città di Salonicco. Questa azione è stata fatta nell'ambito della chiamata internazionale di solidarietà con Juan Alister, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, anarchici prigionieri del governo cileno e accusati per il caso Bombas, per il caso Security. Il caso Bombas è un altro caso che ha riguardato i compagni cileni. I compagni affrontano gravi e varie accuse, tra le quali una rapina in banca e la morte di uno sbirro che fece l'eroe per difendere il mondo del potere e le sue leggi. Ogni atto di attacco contro gli stati e dei suoi meccanismi è un messaggio di solidarietà a tutti i compagni che combattono dentro e fuori le carceri di tutto il mondo. Per la liberazione totale e l'anarchia, solidarietà con i prigionieri anarchici in Cile, forza a coloro che scelgono il percorso della latitanza. Poi sotto c'è una breve nota: Freddy Fuentevilla è un ex MIR, attivo anticapitalista autonomo, Juan Alister è un ex lautarino attivo sovversivo anticapitalista, Marcelo Villarroel è un ex lautarino sovversivo autonomo e libertario. Ora tutti e tre i compagni si definiscono, sono anarchici, questa è la loro storia. È su questo testo che Juan Alister, Google Chrome ha tradotto all'italiano, aveva tradotto un John Reedy, una cosa molto fantasiosa, insomma. Vabbè, però lasciamo perdere, finiamolo con queste cose. Ora andiamo avanti con la musica, ascoltiamo un brano di You're Gone Dead di Aftertaste e dopo si ritorna qui e ancora controinformazione. Broken thought, the cracks of time, wearing so thin. adesso passiamo in Grecia, un aggiornamento sugli avvenimenti del 12 febbraio del 2012 ad Atene da Oxford Freedom Now. Era impensabile quella notte, in mezzo ai migliaia di colpi, fumo e urla, pensare che non ci sarebbe stata una continuazione. La notte del 12 febbraio 2012 non era una notte come un'altra. Gli scontri che sono andati avanti per molte ore per vie di Atene non sono stati capaci di impedire la votazione della nuova convenzione sul prestito, cioè il secondo memorandum dell'UE, però hanno comunque dimostrato che la resistenza sociale è stata presente in modo terrificante. Intorno a questa presenza assoluta sono nate delle prospettive e delle possibilità sono state svelate. Ma questo, tuttavia, è stato riportato in modo dalla repressione, un dominio che si è trovato scioccato di fronte alla dimensione e alla qualità di questa esplosione. Il campo quella notte era spalancato. È stato occupato dunque immediatamente dal meccanismo dell'antinsurrezione, lasciandoci anche oggi con il compito di inventare nuovi modi per rioccuparlo. Tuttavia, il 12 febbraio non ha solo lasciato un deposito sociale fin da oggi non sfruttato, che per adesso provoca una contemplazione melanconica e difficile, ma ha lasciato aperte anche delle battaglie legali. 2 aprile 2014, quattro persone che furono arrestate quel giorno e poi detenute e punite come un esempio, poiché solo alcuni di quei centinaia di migliaia degli esponenti della rabbia sociale giustificata, e tra di loro anche l'anarchico Vagelis Kailoglou, varcano nuovamente la soglia dell'aula giudiziaria. Perché noi non dimentichiamo quei mesi che hanno vissuto privati della libertà e il contrattacco oppressivo pianificato su di loro. Noi saremo là per esprimere nuovamente la nostra solidarietà. Noi non dimentichiamo che sono stati puniti non solo per quello che è successo quella notte, ma anche per le possibilità che sono state create. Proprio come allora, così anche oggi dichiariamo di essere complici. Solidarietà al compagno Vagelis Kailoglou e a tutti quelli che sono accusati nello stesso caso. Il processo si terrà il 2 aprile 2014 alle ore 9 alla Corte d'Appello in via Lucareus ad Atene. Compagni. E poi c'è un post-scriptum di Act for Freedom, un grande abbraccio infuocato al nostro migliore amico e compagno Vagheli Kailoglou e a tutti quelli accusati nello stesso caso. Per chi non si ricorda, di Act for Freedom, chi non si ricorda, nel 2012 ci sono stati dei grandi scontri ad Atene proprio in occasione di un altro prestito dell'Unione Europea alla Grecia. Tra queste quattro persone è stato arrestato anche il compagno anarchico, che se non sbaglio è stato 6 mesi detenuto e poi rilasciato con un'alta cauzione. E adesso sì. E ora inizia il processo. Inizia il processo per solito, prima di fare la galera e poi inizia il processo. Vabbè, questa era la notizia, il comunicato scritto dai compagni di Act for Freedom Now. Ora ci ascoltiamo un brano. Non prima di dirvi che su Radiazione è apparsa una nuova pagina, la dizionario, che dopo andiamo a leggere. La dizionario sarebbe un dizionario di termini anarchici, dell'ambiente anarchico. Non solo anarchici, però sono termini sì utili, ovviamente non sono termini che provengono solo dal vocabolario anarchico, però spesso e volentieri molto utilizzati nell'ambiente anarchico in vari modi interpretati anche. E quindi si è pensato di fare un approfondimento a quello che questi concetti che possono essere trovati anche su il dizionario della Treccani, oppure anche su quello di Anarcopedia, ad esempio la famosa Anarcopedia, una fonte tra i puntini. Una fonte con i puntini a terra, nemmeno quelli non vanno nemmeno su lei, non ci vanno nemmeno ad alzarsi e salire su lei, quindi restano a terra, lasciano al sole, puntini dentro terra. Allora, vabbè, chi lo vuole consultare poi dopo nel abbiamo qualche, leggiamo i primi termini, i primi approfondimenti. Il primo opuscolo. Sì. Il primo volume. Che sarà giornata, man mano si aggiungeranno altri termini, altre lettere. Ora si è partito con la dizionario, parte con la lettera A, e quindi è giusto iniziare così. Quindi ora ci ascoltiamo un brano, loro sono 16 Volt con il brano And I Go, e poi dopo si torna qui e si va nei bellissimi e stupendi Stati Uniti alla premiazione degli Oscar, alla Awards Awards Anarchy. Yes. Allora, 16 Volt And I Go. We'll be right back. 16 Volt, il brano And I Go. Allora, the winner is prendiamo il tappeto rosso. Ricchi premi e Cotillon, palloncini rossi che volano, rossi e neri, rossi e neri in questo caso, non rosa. Poco non lo so se c'erano pure i palloncini rosa nell'occasione, però il premio il premio è importante, il premio è importante. Purtroppo è finto e quindi potevano distribuirlo vero, a quel stato punto meglio. Avrebbe avuto un senso, c'era forse più gente che si candidava per l'Oscar. Cioè, io vi consiglio di andare a vedere sulla pagina di Radio Azione il premio, cioè la statuina di questi. La statuina è importantissima, c'è anche un diploma. C'è pure l'impegno. Sì. Sì, vabbè, l'attestato. Con la firma. Con le stelline. E i cuoricini, sì. No, non ci sono i cuoricini. No, le stelline. Insomma, la notizia non poteva essere solo lasciata nello scrigno, che lo scrigno non è che se lo vanno a guardare tutti, quindi la notizia, le perline anarchiche, quelle là che hanno merito, le pubblichiamo anche sul sito. Si vengono premiate in questo modo, anche noi, cioè premiamo, diamo l'Oscar a loro e si mettono in homepage sullo sito di Radiazione. C'è da ridere, c'è da piangere. Cioè, è tragicomica la cosa che, insomma, negli Stati Uniti c'è questo Anarchist Award dove vengono assegnati questi varie categorie i premi, cioè la statuina al miglior. Vabbè, ci sono un po' di ne abbiamo riportato qualcuno tra i premi, non abbiamo visto i nomi. No, i nomi sono statunitensi, poi no. Chi vuole se li va a vedere sul sito, c'è il link sotto l'articolo. Allora, tipo c'è il miglior alleato degli anarchici, non anarchico. Ovviamente, che qua un po' penso che sono a varie possono, penso, suppongo, varie associazioni, vari comunisti, vari gruppi, insomma il miglior non anarchico, il miglior Che Guevara della situazione. Non anarchico, non penso che sono fascisti. Ma non credo c'hanno legami con i fascisti, sì. Quindi sicuramente era qualche comunista, qualche sindacalista, all'erede di Che Guevara o Lenin o Stalin, non lo so. Poi c'è quello purtroppo agli anarchici morti, c'è poco da ridere, però insomma questo era forse per ricordarti quale tra gli anarchici morti si è meritato di essere premiato, ricordato. È da film horror, cioè da classico film horror americano sto premio, il miglior anarchico morto, che cazzo significa? Il miglior ricordo va a tipo come un premio post morte, ma sì, a carriera. Non so. Tipo la statuina, quando buttano a terra quella di Lenin in Ucraina e gli anarchici alzano le loro. Ma purtroppo i compagni morti che non c'entrano un cazzo, cioè i danni li fa chi fa certe cazzate. Poi c'è il Best Anarchist Audio, il mio progetto audio anarchico, penso saranno documentari, le radio. Potevano premare Radiazione. Forse perché non è in americano. Non hanno ancora forse la categoria dei categoria straniera. L'errore è mio, perché ho preso una croata, dammi una mano, potevo prendere un'americana, e quindi avevo pure la via d'accesso all'Oscar. Radiazione diceva l'Oscar come best audio. In concorrenza con la radio di Zerzan, magari. Poi, che è difficile, Giustamente, lui è primitivo. Come cazzo la fa la radio Zerzan? Che la fa? Ha messo un antenno alla clava, alla capanna di paglia. Non lo so. Come trasmette Zerzan, per esempio, che è primitivista, che c'ha una radio? Bella domanda. Magari c'è qualche primitivista in ascolto che ci può spiegare come i primitivi. Attraverso un sistema fatto di liane che attraverso la vibrazione trasmettono. Sai, giochino i bicchieri di carta col filo e tu parli e dall'altro lato senti. Grazie alle vibrazioni delle liane vuoi ascoltare Zenzan che ti fa una testa così sul primi vitigno, sui Flinston, non lo so, Yabadabadu. Allora, poi c'è la miglior notizia anarchica. Del 2013. Sì, allora adesso mi ricordo anche, non so se era tra il migliore alleato non anarchico, forse era un'altra categoria, ma mi ricordo di aver letto in questo articolo dove diceva anche che anche i giornalisti possono essere alleati non anarchici. Insomma, quando un giornalista ti fa un bell'articolo, vabbè, giornalista di sinistra, ad esempio, noi gli portiamo La Stampa, gli portiamo La Repubblica, il manifesto in Italia, e gli facciamo vedere i migliori alleati nostri quali sono. Poi c'è la miglior fiera del libro anarchico del 2013. Il migliore avvenimento che è successo durante una fiera del libro anarchico, perché ecco, negli Stati Uniti c'è questa, va molto di moda le fiere del libro anarchico, purtroppo è una piaga, dico una piaga perché queste fiere del libro anarchico alla fine si riducono spesso solo alla vendita dei libri, battito poco, io l'ho notato pure troppo a Firenze, è stata una sola volta una fiera del libro anarchico, è stata quella a Firenze un po' d'anni fa, una cosa penosa, cioè da morte nel cuore, da pugnalarsi ogni ora, cioè una pugnalata ogni ora o un calcio nei coglioni, un calcio nei coglioni ogni tre minuti, quindi cioè, vabbè, la fiera del libro va bene, però... Ma che non sia quello il senso, lo scopo è solo la vendita del libro. Va bene la diffusione del libro, va bene, è tutto quello, anche se io sul contrario, lei in primis, sulla vendita di libri e testi anarchici. Con il prezzo sottoscrizione, stampato. La sottoscrizione, le idee non si mettono in vendita. Poi c'è la miglior rivendicazione. This is the winner is il settimo comunicato delle ITS in Messico. Ecco, questo è la miglior rivendicazione. E questo è interessante perché comunque, cioè, è in lingua straniera. Io avrei messo quella dei catalani dell'anno scorso. Le 10 azioni, ho comprato il lecca lecca al figlio del vicino. Ero raccontato la storiella. Ho portato la spesa sulla base. Ho aiutato a zappare l'orto al vicino. La mia rivendicazione per un premio del genere sarebbe stata adatta. The best new city, la miglior città anarchica. Dove stanno? Ditecelo. Che vogliamo trasferirci. Questo era giusto per dare l'idea, ma c'era anche uno sui miglior prigioniero. Cioè, il miglior prigioniero anarchico, il miglior commentatore di notizie anarchiche. Il Bruno Vespa o il miglior fede anarchico, che se lo voglio vedere. Me lo immagino, in Italia potrebbe fare Maria Matteo, abbiamo detto no, vabbè, della federazione anarchica italiana, vabbè. Oppure qualcuno che prende i treni. Non parliamo di trenini perché poi la gente si offende. Poi io mi chiedo. Oppure la miglior manifestazione in cui ci sono venuti scontri. Ovviamente ha vinto Seattle. C'era questo anche tra le categorie: il miglior evento, the best smash event e the best non-smash event, cioè il migliore avvenimento di scontri, di violenza. Il migliore avvenimento non violento. Vabbè, non ricassate, non ne siamo a raccontare. Abbiamo messo il link sotto dove c'è Winner of 2013 Anarchist Europe Awards. Poi non so come vengono a ritirare questi premi, ad esempio il miglior prigioniero. Al cinema, anche il teatro, ci saranno un teatro, una serie, non so. Con le sedie, ci sarà il Benigni di turno anarchico che saltella sulle sedie. E infatti anche il giornalista non anarchico, l'alleato che viene a fare l'articolo. Quest'anno ha vinto la grande schifezza, quindi. E beh, allora questo era per quanto riguarda gli Oscar americani. Purtroppo i compagni americani, faccio fatica a chiamarli compagni onestamente, cioè io ci vado, cioè, piano, anche tra compagni, cioè anche tra anarchici, anche facciamo differenze, compagni, non siamo tutti compagni. Evidentemente si sentivano un po' messi da parte rispetto agli Oscar che sono del cinema. Loro sono per la cosa pari a tutti, tutti i livelli, a tutti e tutto. E ha detto perché non anche noi fare. E quindi si sono creati il loro Oscar, la bombetta con la cerchiata Anarchist News. Sì, con la pubblicità anche, insomma, sì, sponsor. Sì, sì, la pubblicità l'avevamo vista già da tempo sullo scrigno, ora c'è la presentazione. Va bene, va bene, va bene. Allora facciamo una cosa. Ascoltiamoci un brano, Drunk Eye on the Train, nemmeno a farla apposta. E poi dopo si torna qua e si inizia a leggere qualche termine dal dizionario, la dizionario di radiazione. Continuiamo noi, lo spiro è un mestiere di merda. lunga pausa, una pausa durata un quarto d'ora circa. Mancanza della linea, scomparsa, sempre alla stessa ora. Sempre alla stessa ora, sempre allo stesso minuto, 18:20. Abbiamo controllato con il podcast in cui era stata buttata giù la settimana scorsa, anzi lunedì con Marcello, durante la lettura, 18:20, ora 18:15 preciso, un'altra volta mentre saltiamo lì, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni a bruciare il culo, e a loro, a noi ci brucia il culo, perché siamo di nuovo qua, in male che va, si registra la diretta d'azione e poi si pubblica il podcast. I gran cazzi. Allora, eravamo rimasti alla dizionario di radiazione, era aggiornato periodicamente con altri termini, altre lettere. Si è partiti con la A di anarchia, ovviamente si poteva partire se no con il significato del termine che ci sta poco più a cuore a tutti. Anarchia, te lo leggi tu, ti devi leggere il primo tuo, dai. No, allora, anche c'è il nome in greco, sti cazzi, io non lo leggo. No, il greco si pronuncia anarchia come in croato, quindi come si pronuncia? Anarchia. Beh, no, sono bravo, Luno. Allora, quindi anarchia, vabbè, insomma, sappiamo tutti cosa vuol dire, senza governo. È una forma di società basata sul libero accordo, la solidarietà, l'uguaglianza, il rispetto reciproco. L'individuo anarchico agisce in un modo autonomo, rifiutando qualsiasi forma di autorità. Quindi le sue scelte non vengono delegate a nessun individuo o gruppo. E questo era per iniziare il dizionario, perché poi ci sono termini che poi vanno a smentire la natura anarchica di alcuni individui. Ad esempio, attraverso le deleghe. Sì, ma poi questa è la lettera D, già sei andato avanti. Ma giusto per dare un accenno a quello che sarà pubblicato nei prossimi volumi del dizionario, uscirà a fascicoli un euro per la prima uscita, un euro, poi il secondo 2 euro, 4 euro, e così avanti. Quindi chi vuole leggere, poi dopo faccio un bonifico, sottoscritto, tutto ok. Allora partiamo, dopo aver detto cos'è l'anarchia in poche parole, perché altrimenti poi diventiamo noi arroganti e tutto il resto. Poche parole, semplici e basta. Poi ognuno ci aggiunge del suo. Il proprio. Sì. Primo termine del dizionario fondamentale. L'arroganza. Arroganza. Di arroganza. Cos'è questa arroganza? Allora, l'arroganza è un modo di fare che viene assunto da parte di chi pensa di avere sempre la verità in tasca. Chi con qualsiasi atteggiamento linguistico e o pratico tende a dimostrare la sua superiorità nei confronti del prossimo. L'arroganza cammina spesso sul filo, in un equilibrio molto delicato, che si spezza, se si spezza scade nel avanguardismo, che vedremo più avanti. Nel mondo anarchico l'arroganza si può manifestare in vari modi. Qua ci sarebbe bene la musichetta di ragazzi documentari di Piero Angela. Allora, facciamo qualche esempio di arroganza. Tipo, dare patenti anarchiche, che è un modo di fare che ha sempre caratterizzato la così tanto amata federazione, ovviamente presuppongo che si sottointende che è amata tra virgolette la Federazione Anarchica Italiana. In questi casi l'individuo che si reputa anarchico in base alle sue valutazioni di tra virgolette qualità definisce anarchico o non anarchico un altro individuo. Per l'individuo di sesso maschile è molto più difficile farsi accettare come anarchico, mentre per l'individuo di sesso femminile e per il maschilismo esistente anche tra anarchici è molto più facile. Tutto ciò è in netto contrasto con i principi dell'anarchismo. Andiamo avanti con i termini e poi dopo facciamo una lettura generale spiegata, un riassunto ulteriori esempi, però comunque. Autoritario o autoritaria. Individuo che impone sempre e costantemente la propria volontà su altri individui tendenti alla sottomissione. L'autorità viene attuata nel momento in cui uno o più individui, attraverso l'arroganza del linguaggio e del sapere, si crea un palco immaginario, un altare da dove far sentire il peso della sua presenza su altri individui. Ad esempio, in un incontro, assemblea, dibattito, insomma, dove ci sono vari individui riuniti per discutere su alcuni punti elencati nella chiamata, può capitare, capita spesso, che ci sono i soliti individui che parlano e tantissimi altri che non intervengono. In rarissimi casi l'individuo che espone il suo punto di vista lo fa per aprire un dibattito sperando nell'intervento di qualche altro individuo. In questo caso non c'è nessuna forma di autorità. Autorità che si manifesta quando uno o più individui, attraverso il loro linguaggio, che può sembrare affascinante o filosofico, mettono subito a tacere con l'arroganza e la superbia i timidi interventi con qualsiasi scusa e toni alti. Questo provoca la quiete dopo la tempesta. Dopodiché riprendono la parola quegli individui più autoritari per fare in modo che i punti, gli spunti e tutto il resto che concerne un dibattito venga deciso solo da pochi di loro. Nei casi di autorità, gli individui che si sottomettono lo fanno perché il loro pensare di essere inferiore viene creato da uno stato di soggezione, che è generato a sua volta dal carattere forte e marcato ripetutamente dalla persona che gli è di fronte. L'autoritario o l'autoritaria fa sì che gli individui di cui si circonda pendono costantemente dalle sue labbra. Una tale forma non ha un cazzo a che fare con l'anarchismo. Andiamo avanti? Avanguardismo. Tendenza ad assumere posizioni o atteggiamenti di avanguardia. L'avanguardismo deriva da una terminologia militare in cui l'avanguardia era la parte in testa del plotone, il piede di porto che apriva i varchi per poi far entrare tutto il resto dell'esercito. Porsi come avanguardia significa autodefinirsi unici possessori della chiave che apre la porta alla verità. O si fa così o non se ne farà niente, oppure si fa così perché in qualsiasi altro modo è sbagliato. Queste due frasi molto simili sono l'unico pensiero di chi si vuole porre come avanguardia. Esprimere un proprio parere, la propria idea su come o cosa fare non significa porsi come avanguardia, dipende dal modo di esprimersi. Avanguardia e arroganza sono, se non proprio simili, quasi la stessa cosa, specialmente in un ambito ideologico. Quando vengono accettate con sottomissione da parte di altri individui, questi due termini si trasformano in autorità. E andiamo avanti con l'ultimo termine per oggi, poi aggiorneremo, come detto. Azione diretta. Pratica che, da come dice lo stesso termine, viene svolta nell'immediato. Essa viene praticata sia individualmente che in gruppo. L'azione diretta mira a dare una risposta in modo violento attraverso il sabotaggio alle varie forme di nocività, quali possono essere strutture di potere statale o religioso, capitalistico o repressivo, che avvelenano forme di nocività che avvelenano la vita quotidiana di milioni di individui. Un'azione diretta può essere o meno accompagnata da un testo che rivendica l'atto. Questo viene deciso solamente ed unicamente da chi pratica l'azione, che allo stesso modo decide se firmare o meno lo stesso testo con una sigla. Nessuno di chi non ha praticato un'azione diretta può criticare le scelte fatte dai stessi praticanti, perché rischierebbe di essere arrogante, quindi arroganza. Una manifestazione o un presidio, spesso e purtroppo volentieri sono autorizzati da caserme e questure, non possono essere definite azioni dirette. Richiedere l'azione di, l'autorizzazione significa riconoscere il ruolo autoritario di certe strutture, anche se lo si fa e malvolentieri. Allo stesso modo non possono essere definite azioni dirette le scritte sui muri o gli striscioni, anche se sono una diversa forma rispettabile di propaganda e spesso di solidarietà. L'occupazione invece, che sottrae edifici e spazi ai comuni, a ditte, banche o anche a semplici proprietari, è un'azione diretta proprio perché in modo violento, o può essere anche la rottura semplice di un sigillo o di un lucchetto, si riappropria di ciò che dovrebbe appartenere a tutti ed invece appartiene solo a pochi. E questo erano i primi quattro voci dell'addizionario di radiazione. Noi già ne avevamo parlato in passato, andando a pescare delle riflessioni fatte dal sottoscritto e pubblicate sul blog all'epoca di radiazione, di alcune cose che non quadravano nella, nell'ambiente anarchico. Non lo chiamo movimento perché non si muove, secondo me non si muove, quindi non è un movimento. E quindi avevamo accennato qualcosa su alcuni punti, ora non mi ricordo, forse sull'autoritarismo, sì, sul sessismo, cosa. Allora, andiamo. Da dove partiamo? Arroganza, l'autoritarismo. L'arroganza autoritaria e l'avanguardismo, che secondo me camminano tutti e tre sullo stesso binario. Sì, sono l'avanguardismo e l'autoritarismo specialmente si equilibrano, sono in parallelo, spesso anche negli ambienti anarchici non, certe persone non riescono a scrollarsi, diciamo, di dosso quello che è stato assorbito dalla società in cui si vive. E quindi questi comportamenti, ovvio l'autoritarismo alla fine, io dico sempre, non c'è sempre da guardare entrambe le parti, se esiste l'autoritarismo ovviamente esiste la sottomissione, infatti, quindi ci sono anche delle persone quindi che non riescono a salvarsi di dosso la stessa sottomissione assorbita dalla società in cui vivono. La cosa peggiore, no? Ora mi ricordo dell'autoritarismo, nell'essere autoritario o autoritaria si era fatto un esempio che è quello più classico, è quello che viene più in mente, quello delle assemblee, iniziative allargate, dei dibattiti in cui ci sono sempre le stesse persone. A volte capita purtroppo che ci sono sempre le stesse persone, è capitato pure a me e qualche altro compagno a trovarsi in vari incontri e a parlare sempre. Non era un fatto di autoritarismo, però era un fatto un attimo per sbloccare un attimo il discorso sperando che qualcuno intervenisse, però dopo, ho visto che dopo già un primo incontro, quando ci sono stati gli incontri ripetuti, la cosa è andata migliorando. Anche perché è vero, cioè dove esiste autoritarismo, l'autoritarismo esiste perché c'è sottomissione. C'è sottomissione, il re esiste perché c'è il popolo che lo elegge. I politici, i governanti esistono perché sono il popolo che li elegge. Quindi dove c'è sottomissione c'è automaticamente autoritarismo. La sottomissione, cioè lo stare zitto in assemblea, non esporre la propria idea, Vuol dire sottomettersi a quello che è stato detto, cioè vuol dire accettare, essere d'accordo assolutamente con tutto. Cioè che io ho qualche dubbio che in un'assemblea, cioè, tutti possono essere d'accordo su tutto, cioè qua viene a mancare proprio, cioè, il principio dell'individualismo. C'è pure il paraculismo per ragazzi. Infatti, cioè, il paraculismo è questo la base. Io non parlo, però dopo, appena finita l'assemblea, mi metto con quei tre o quattro e ne parlo alle spalle. E ne parlo alle perché spalle. Parlare pubblicamente vuol dire anche inimicarsi forse qualcuno. Cioè in Italia, ma nel mondo, però è una cosa che esiste in Italia, io conosco la situazione in Italia, quindi parlo dell'Italia. Io parlo della situazione dei miei poi genitori. Poi senti che gli anarchici sono per l'informazione, gli anarchici sono per questi, bla bla bla bla bla bla, e poi non ci sta nemmeno i coglioni di dire la propria in un'assemblea tra pari, tra gente che la pensa allo stesso modo. E quindi come cazzo, se uno non c'ha il coraggio di dire la propria in un'assemblea, non capisco come poi vada fuori e potrebbe fare un'insurrezione. Quindi allora spieghiamo pure il motivo pure per cui è nato anche il dizionario di radiazione, perché si parla tanto della New Anarchy. Allora la New Anarchy sta cambiando totalmente i significati alle parole, quindi cioè, è giusto andare a dare una rinfrescata pure a chi parla tanto di New Anarchy. Io non accetto né la New Anarchy né la vecchia anarchia. Esiste una, cioè, esiste una, come, cioè, cos'è? Adesso dobbiamo reinventarla. Sì. Cioè, perché una è fallita. No, adesso sentiamo un altro, ma era proprio. Poi faremo il bipolarismo anarchico, non lo so, ci uniremo con la Federazione Anarchica Italiana. Ma vero, era proprio l'altro giorno che leggevo sul sito degli anarchici bosniaci, che comunque era un testo che viene ripreso da un sito, adesso non so se da un sito ucraino, un sito russo, non mi ricordo, dove addirittura parlano di un anarchismo occidentale, dell'Europa occidentale americana, e di un anarchismo dell'Europa dell'Est, quindi dove dicono che l'anarchismo occidentale è fallito, no? E quindi non ha avuto un successo, e quindi bisogna ritornare alle radici di un anarchismo dell'Europa dell'Est, quello che era il socialismo. Ricordiamo che questo articolo lo trovate anche sullo scrigno alla voce bosniaci. Io consiglio di andare alla visita, una critica all'anarchismo occidentale. Ora, o troppo occidente, speriamo che purtroppo anche dall'altra parte vive anche di Oscar, però diciamo che l'America, diciamo, il fulcro dove è un po' nato l'anarchismo, essere criticati da chi fa alleanze con leninisti, per non parlare o con ucraini, appoggia la popolazione ucraina, che stanno facendo di tutto, la stessa, come si chiama ora, la Kronstadt, la San Sebastopoli, la vecchia Kronstadt, che ora tutti quanti difendono come Kronstadt, Sebastopoli ora sta facendo è il punto di forza delle proteste in Ucraina, che vogliono entrare in Europa, cioè, anche là, insomma, a criticare gli anarchici occidentali, quelli europei non combattono per l'indipendenza dello Stato. Io bevo, però gli altri si ubriacano, lo dico sempre, io bevo e gli altri si ubriacano. Quindi l'avanguardismo, per esempio, è uno dei temi che purtroppo esce fuori, anche se non autodichiarato, esce fuori in certi testi, si legge tra le righe, come si legge tra le righe, anche in molti testi apparsi anche in rete negli ultimi 2-3 anni, si legge nelle parole, l'arroganza nel dire delle cose, i modi, non l'agire è quello viene condiviso, ma le parole, il pensiero che vengono accompagnate a quel modo di agire, puzzano di avanguardia, lo dico molto chiaramente. Sì, perché alla fine molto spesso hanno un caso a che fare con un acronimo che poi viene messo a fianco delle firme, perché ora, cioè, uno va a criticare testi come la Galassia Anarchica, l'Anonimato, però allo stesso momento tocca criticare anche chi di informalità non ne ha per niente, quindi poi approfondiremo ecco, anche questo, insomma, per noi in un futuro una pura voce. C'è l'arroganza, abbiamo letto un testo su Contrainfo, dico il titolo, dice un testo su Contrainfo in inglese, sì, scritto dai compagni di Contrainfo, i guri riaprono di nuovo dell'anonimato. L'azione non dovrebbe avere una rivendicazione, perché è un simbolo, perché in questo modo viene spettacolarizzata, e dell'azione si devono appropriare tutti e appartiene a tutti. Con questo ci siamo collegati pure all'azione diretta, quando si dice che l'azione se la rivendica e se la fa chi la porta avanti, no chi sta a casa a limite questa volta veramente dietro al computer nell'aria viziata della sua cameretta, e mette a criticare azioni in cui i compagni che l'hanno portata avanti non hanno rischiato di mettere o meno una virgola o un punto attraverso la tastiera, ma hanno rischiato anche di farsi arrestare, rischiano la vita, ricordiamo Maurizio Morales, ricordiamo Zoe, ricordiamo Sebastian, ricordiamo anche Tamara, che è entrata, ha gridato vendetta, ha sparato addosso a una guardia. Se c'era un'altra guardia dall'altro lato armata, avremmo perso l'ennesima compagna. Sono loro che devono parlare, non devono parlare chi che ti stanno a dire, fai il professorino del cazzo, lo dico molto tranquillamente, il professorino del cazzo, a dire l'azione non va rivendicata, l'azione delle rivendicazioni siamo una cazzo. Chi le fa, le fa. E chi non vuole a farle firmarsele non se le firma. Non, è inutile che qua si continua, cioè questo testo letto su Contrainfo, che adesso non ricordo, appendice a una discussione abortita, una cosa del genere, dove parlano che purtroppo non c'è stata questa discussione su anonimato o meno. Quel testo non è affatto una discussione, perché ripete di nuovo sempre le stesse cose, che insomma l'azione non deve essere firmata, eccetera, eccetera. La discussione, poi loro erano riferiti a... il continuo della discussione era riferito alle CCE. Alle CCF, che di voi nuovo. Perché voi se si aspettano, che si aspettano che gli altri anarchici fuori liberi prendono posizione su qualcosa, sì, grazie, aspettate. Insomma, e se vogliono fare azioni anonime, che le facciano. A limite noi siamo al centro della rossa, ma non tutti dicono la propria. C'è chi fa buon viso e cattivo gioco, c'è chi organizza iniziative e poi parla male per le iniziative che ha organizzato. Chi sente da pedini, chi fa... Ma non continuiamo, quindi... vabbè. E questo era... ci dimentichiamo qualcosa? Vabbè, l'azione diretta, insomma, ormai leggendo le notizie, sì, io ora, quando vai. Vedo è stata fatta l'azione diretta... con il selfie, si chiama selfie ora, il selfie di gruppo, davanti allo striscione si puntano il telefonino. Insomma, a me sa tanto da Facebook questa cosa, cioè io faccio due scritte. Io voglio premiare la foto più bella della... La migliore azione la diretta. La notizia degli animalisti liberati, quattro coniglietti. E la liberazione di quei quattro, c'erano tre animalisti col cappuccio, con il coniglietto in braccio. Voglio capire il quarto che cazzo di fine ha fatto, poi, cioè, perché voi tre, c'è il razzismo? Forse che l'altro era bianco, era nero, era rosso, non lo so, era più brutto. Perché sono stati presi quei tre e non tutti e quattro i coniglietti? Allora, io voglio dare l'Oscar a questa fotografia. Cioè, io mi chiedo anche da dove hanno liberato solo quattro coniglietti, cioè non so, qualche contadino. Da macellaio. Cioè, io sono vegetariana, però comunque, insomma. Cioè, io no. Io sì, e quindi però a parte questo. Me li mangio i coniglietti. Io non li mangio, però non vedo neanche il senso tanto, cioè. Di farsi pubblicità andando a liberare quattro conigli dal non so da chi, cioè, ma io posso solo, qua non si tratta di un attacco a un laboratorio o un allevamento industriale di animali o di vivisezione, cioè abbiamo liberato quattro galline del vicino, cioè, insomma, se le... la prossima volta consiglio, rubate anche dei pomodorini. Portate tutto a me, c'è coniglietto e pomodorino, la cacciatura. No, no, i pomodorini a me. Ma dai, coniglio. Ho la gallina. Insomma. Qualsiasi cosa, ben accetta. Che non te la prendessero a mare gli animali, c'è una vegetariana accanto, quindi. Va bene. No, per quanto riguarda le azioni, sì. Continua a leggere azione diretta, vai a aprire il testo, cioè, lenzuolo steso, abbiamo buttato i volantini, azione diretta, abbiamo steso uno striscione, azione diretta, abbiamo spruzzato con la vernice la porta della chiesa, cioè. Tanto di cappello a chi le fa, vanno fatte anche queste cose, però tra dire e fare, cioè, ecco, insomma, differenziamo i concetti. Che cos'è l'azione? C'è in mezzo il mare. C'è il mare, è un oceano in questo caso. Tra prendere lo striscione, l'azione diretta. Ecco, leggete radioazione. Leggete l'addizionario senza arroganza, non lo diciamo senza arroganza, andiamo a ricordare dei punti che poi alla fine trovate. Si fanno solo degli esempi ulteriori ai termini che potete trovare pure sulla Treccani, sui quattro cani o su Anarcopedia. Insomma, qualsiasi dizionario, leggete questi termini, ma noi. Si va ad approfondire, si vanno a cercare i punti in comune e in disaccordo con il mondo anarchico. Quindi a breve verrà riaggiornato con ulteriori temi. Ora ci ascoltiamo un brano, dove eravamo rimasti, a Distance, Treason Works, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione in diretta. Essential elements in comedy is inconsistency. Comedy is inconsistency. If a man sits down to play the tuba and the sound of a piccolo emerges, it's ludicrous. Sound of a piccolo emerges, it's ludicrous. Likewise, the little man with the big foghorn voice seems ill-suited. Foghorn voice seems ill-suited. Yes, it's your plump little woman coming forth with husky. It was not your story. adesso andiamo in Cile sull'aggiornamento della situazione della compagna di Tamara Sol Vergara. Ricordiamo che la compagna Sol fu arrestata il 21 gennaio 2014 ed accusata di aver sparato a un vigilante del Banco Estado nel comune di Estación Central di Santiago. Stessa banca, ma in un'altra filiale, il compagno anarchico Sebastiano Verslui fu crivellato durante un tentativo di rapina. Dopo essere stata arrestata, è stata accusata dalla macchina giudiziaria di tentata rapina. Così la procura punta l'accento sul revolver rubato presumibilmente al vigilante della compagna Sol. Il 14 marzo 2014 il giudice Ninoshka Mosnic ha deciso di cambiare l'accusa in tentato omicidio di carattere frustrato. Questo cambiamento di imputazione contro Sol le dà un beneficio, dato che il range di pena a cui potrebbe essere condannata è minore, anche se inizia da 5 anni e un giorno. Attualmente la compagna è in custodia cautelare nel centro di sterminio di San Miguel. Solidarietà inarrestabile con Sol, difendiamo le azioni multiformi per alzare il livello di scontro contro l'esistente. Ricordiamo anche Cile per l'ennesima volta, abbiamo detto che è finita la giornata di emigrazione solidaria internazionale con i compagni Caso Segundi, e ricordiamo che per l'appunto il 25 marzo è iniziato il processo per i tre compagni Freddy Mazzella e Juan. Per chi vuole seguire gli aggiornamenti sul link sulla radiazione, trova il link dei siti, tra cui quella della giornata internazionale di agitazione internazionale solidale con i tre compagni. Là c'è tutto quello che riguarda il processo, gli aggiornamenti che verranno pure pubblicati su radiazione, ma i testi, tutti i testi arrivati dal carcere in solidarietà con i tre compagni, non solo dal carcere ma anche da fuori, le azioni, tutto, insomma, il sito creato apposta per la giornata di agitazione solidaria internazionale. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Anthrax con il brano Skullduggle Crusher, e poi dopo si ritorna qui con l'ultima notizia di controinformazione per oggi. questi erano gli Edrix, un brano Skull Crusher. Ora, come detto, passiamo alle ultime due. Una è brevissima e l'altra la leggeremo. Notizie di controinformazione, tutte e due che arrivano dall'Italia. La prima è che secondo i mass media genovesi ci sarebbe un nuovo indagato per quanto riguarda almeno il furto dello scooter con cui Alfredo e Nicola la mattina del 7 maggio 2012 andarono ad azzoppare a Roberto Di Norfi a Didi Anzato Nucleare a Genova. Fatto che i compagni hanno rivendicato tutto, come è nata l'azione, dall'acquisto della pistola, anche del furto del motorino. Io ricordo bene che non mi ricordo se era Alfredo Nicola che raccontava del furto dello scooter, perché stavano cercando uno scooter, alla fine se ne sono trovati uno con le chiavi già appiccicato là vicino, e poi sono passate addirittura il giorno dopo, c'era ancora lo scooter con le chiavi e se lo sono preso. Ora il PM è piacente, visto che c'ha un cazzo da fare, visto che forse gli serviva qualche mese in più di paga, si sta ricreando un nuovo caso con un terzo compagno. Ci sono solo le iniziali sui giornali genovesi, così cerca di modificare anche la rivendicazione. Non solo non gli ha fatto piacere la rivendicazione, ma ora vanno pure a cagare il cazzo. Vabbè, è lavoro, è lavoro. Magistrati cercano il lavoro, questo dobbiamo essere consci. Loro non possono rimanere senza lavoro, è come un operaio che va a chiedere lavoro in fabbrica, va a chiedere l'AFA, il concorso. Loro hanno la possibilità di inventarsi il lavoro, il miglior lavoro, perché cioè il lavoro loro, cioè, che proprio per eccellenza, è quello di sbattere qualcuno in galera, in modo che tra scadenze di termini, arrivare al processo e tutta la, comunque si sono intascati almeno quei 3, 4, 5 anni di paga assicurate, belle pulite, e quindi ora vanno a cagare il cazzo con un ennesimo compagno che non capisce perché, visto che Alfredo che Nicola hanno rivendicato anche il furto del motorino. Anzi, mi ricordo che Nicola si scusava anche per il fatto di aver privato la persona del motorino, se ricordo bene la dichiarazione. Invece la seconda notizia riguarda il processo per Gianluca e Adriano, i due compagni arrestati il 19 settembre scorso a Roma, ai Castelli Romani, per alcuni attacchi. Per chi non lo ricorda, i due compagni di cui furono pubblicati video, foto, intercettazioni, tutto è stato pubblicato, forse per la prima volta in Italia anche i video con mentre parlano, insomma, per degli attacchi all'Eni, all'Enel, a qualche banca, ora non ricordo bene tutti gli attacchi di cui sono accusati i due compagni. Allora, il processo il 26 marzo si è tenuto a Roma presso il Tribunale di Roma l'udienza preliminare per il processo in cui sono imputati Gianluca e Adriano. Leggiamo il testo, che è stato preso da Rete Evasioni. Sotto c'è il link per chi vuole andare a controllare anche il sito dei compagni. Allora, i due compagni sono accusati di associazione con finalità di terrorismo o di eversione, all'ordine democratico, a cui si aggiungono quelle di incendio, furto aggravato in concorso, deturpamento e danneggiamento di cose altrui. Si tratta di 13 azioni realizzate nel territorio dei Castelli Romani contro banche, una pellicceria, sedi distaccate di Eni e Enel e contro la discarica di Albano. Il processo di fronte alla Corte d'Assise avrà inizio il 26 maggio. Con il provvedimento di rinvio a giudizio, il gruppo d'Alessandro si è assunto la grave responsabilità di disporre che gli imputati debbano partecipare tramite videoconferenza. La decisione sarebbe motivata da una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che prescrive l'utilizzo di questo dispositivo come misura di contenzione dei detenuti più pericolosi. adottato in seguito all'evasione di Domenico Cutrì, avvenuta nel corso di un trasferimento giudiziario. Si tratta di una misura che da ora in poi potrebbe riguardare insieme ad altri tutti i procedimenti riguardanti i detenuti in regime di alta sicurezza. L'utilizzo della videoconferenza rientra all'interno di una politica carceraria stabilita dalla comunità europea basata sul modello della differenziazione e quindi dell'isolamento. Si tratta di separare dal corpo dei detenuti gli elementi considerati più pericolosi, da un lato per poter con minor rischio e minor costo gestire la massa crescente degli internati, dall'altro per tentare di annichilire tutti i nemici dello Stato insuscettibili di ravvedimento. L'isolamento che si tenta di imporre in maniera sempre più stringente può arrivare ad essere una vera e propria forma di tortura che provoca pesanti danni fisici e psichici a chi la subisce. Una serie di provvedimenti adottati recentemente nelle sezioni di AS2 riservate ai compagni rivoluzionari sono indirizzate ad aumentare il grado di isolamento. Chiusura di cancelli che dividono da altre sezioni, limitazioni di colloqui, tentativi di imporre l'isolamento individuale, divieto di incontro tra detenuti della stessa sezione. A tutto questo si aggiunge il processo in videoconferenza, con uno strumento che colpisce in diversi modi gli individui a cui viene imposto. Sul piano umano, negare ad un detenuto di partecipare fisicamente alle udienze significa infliggergli un'ulteriore violenza, impedendo che il suo sguardo possa, anche solo per un breve tempo, fuoriuscire dal ristretto orizzonte dell'istituzione totale ed incrociarsi con quello affettuoso e solidale dei compagni, degli amici, dei parenti. Dal punto di vista processuale, la videoconferenza fa parte di una serie di dispositivi tesa a rappresentare l'immagine del nemico, il mafioso o il terrorista, del quale si deve cancellare ogni traccia di umanità e ragione. Si suggerisce una colpevolezza a priori legata a ciò che è un soggetto considerato piuttosto che ai gesti che ha effettivamente compiuto. L'imputato viene rappresentato come un mostro da tenere relegato in stato di quanto troppo pericoloso per presenziare in aula. Così una giuria popolare potrà condannare molto più a cuor leggero un'immagine che scorre su uno schermo come il telefilm della sera, piuttosto che un essere umano in carne ed ossa che è in grado di riconoscere come un proprio simile, esattamente come un militare che guida un drone uccide più a cuor leggero di uno che spara da distanza ravvicinata. L'imputato invece verrà limitato nelle possibilità di esporre le proprie ragioni da una corte che potrà togliergli arbitrariamente la parola e che di fatto lo porrà sotto questa costante minaccia. Verrà escluso schiacciando un semplice tasto ogni qualvolta dica qualcosa di non gradito ai toccati. Recentemente, con l'applicazione dell'articolo 270 sexis, il potere si è dimostrato di possedere uno strumento giuridico potenzialmente in grado di colpire con condanne pesantissime ogni forma di reale conflitto sociale. Stabilito che terrorista è considerato chiunque si opponga efficacemente al sistema, devono in seguito costruire l'immagine del terrorista con un adeguato impianto scenografico. Da questo punto di vista la videoconferenza è un ulteriore strumento di guerra psicologica che si aggiunge ai processi in aula bunker, all'utilizzo di carceri speciali, al linguaggio mistificatorio con cui si descrivono le azioni di lotta, evocando tutto un immaginario. Mentre le cause sociali della repressione sono sempre più evidenti, mentre assistiamo con crescente frequenza a costruzioni giudiziarie che assumono sfacciatamente il carattere della rappresaglia politica, i repressori mettono in atto l'ennesimo tentativo di tappare la bocca a chi si oppone in un sistema fallito. Vogliono soffocare le voci coraggiose e ribelli, vogliono seppellire le ragioni di chi lotta nel silenzio del cemento. Le sentiranno i signori a potere queste voci, le sentiranno sempre più forti e sempre più vicine alle loro orecchie che non tollerano disturbi. Le sentiranno nei tribunali che vorrebbero asettici, nelle piazze che vorrebbero rassegnate, nelle notti in cui vorrebbero dormire sogni tranquilli. Solidarietà attiva a Gianluca Adriano, solidarietà ai compagni e alle compagne prigioniere, solidarietà ai detenuti e alle detenute. le evasioni Flex Mob. E questa era per quanto riguarda l'ultima notizia per la diretta d'azione di oggi. Quindi diamo l'appuntamento per la diretta di lunedì, che è 31 marzo, ultimo giorno di marzo, con la controinformazione, la musica, ma soprattutto la lettura. Lo ricordo che lunedì scorso abbiamo finito il libro di Valerio Evangelisti, Tortuga, chiudendo per quest'anno la saga dei pirati, e specialmente finendo quest'anno con Valerio Evangelisti, altrimenti qua veniamo accusati di essere i promoter di Valerio Evangelisti. Ci piacevano i libri, li abbiamo letti, anzi cazzi, potremmo leggere anche il terzo, però è giusto anche spezzare. Il libro che andremo a leggere lunedì è, non ve lo dico, è sorpresa, lo saprete lunedì sulla, solo ascoltando la radio, comunque attraverso l'annuncio che c'è quotidianamente il giorno delle dirette sul sito di Radiazione. Quindi lunedì apparirà il titolo del libro che andremo a leggere, forse l'ultimo per quest'anno, per prima dell'estate, o forse per ultimo, non si sa ancora. Insomma, appuntamento per lunedì prossimo, ore 17, la mail è radiazione@radiazione.org, mi raccomando, inviateci tutte le critiche, specialmente tutte le diarree, anche qualche consiglio sui libri da leggere in futuro. Ora l'abbiamo scelto noi, abbiamo dato tempo fino a mercoledì e poi l'abbiamo scelto noi il libro. Invece per il sito dove potete leggere la controinformazione aggiornata è radiazione.org, dove potete anche ascoltare la radio attraverso il lettore flash che trovate sulla sidebar lunedì e venerdì dalle 17 poi, o di ascoltarvi podcast attraverso la categoria ascolta le dirette d'azione. Là ci trovate tutti i podcast da un anno e mezzo a questa parte. Scaricatevi opuscoli, libri, manifesti e cd dalla pagina download, fatevi due risate con lo scrigno, non vi fate girare i coglioni, fatevi solo due risate e acculturatevi nell'addizionario da oggi in poi, nell'addizionario. Allora, finiamo qui e vi lascio con un brano dei Yanodyne, con il brano Reactor. Appuntamento a lunedì. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Frequenze di azioni in diretta. Frequenze di azioni in diretta. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Controinformazione, verdure, promozioni, musica. Radio Azione, frequenze di azioni in diretta. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Radio Azione, controinformazione, verdure, promozioni, musica. Radio Azione, frequenze di azioni in